Ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. Sabato mattina, 7:30. I rami nudi che si arrampicano lungo la mia finestra si sono coperti di giovani foglioline verdi, un vello di riccioli sui loro nudi e duri corpi di asceti. Già, com'era ieri, nella mia cameretta. Ero andata a dormire presto. Dal mio letto guardavo fuori attraverso la grande finestra aperta ed era come se la vita con tutti i suoi segreti mi fosse nuovamente accanto, come se la potessi toccare. Avevo la sensazione di riposare sul suo petto nudo, di sentire il battito regolare e leggero del suo cuore. Ero fra le nude braccia della vita e ci stavo così sicura e protetta. Pensavo, com'è strano. C'è la guerra, ci sono campi di concentramento, piccole barbarie si accumulano di giorno in giorno. Camminando per le strade io so che in quella casa c'è un figlio in prigione, in quell'altra un padre preso in ostaggio o un figlio diciottenne condannato a morte. E questo capita a due passi da casa mia. So quanto la gente è agitata. Conosco il grande dolore umano che si accumula e si accumula, la persecuzione e l'oppressione, l'odio impotente e il sadismo. So che tutte queste cose esistono e continuo a guardare bene in faccia ogni pezzetto di realtà nemica. Eppure, in un momento di abbandono, io mi ritrovo sul petto nudo della vita e le sue braccia mi circondano così dolci e protettive e il battito del suo cuore, non so ancora descriverlo, così lento e regolare, così dolce, quasi smorzato, ma così fedele, come se non dovesse arrestarsi mai, e anche così buono e misericordioso. Io sento la vita in questo modo. Né credo che una guerra o altre insensate barbarie umane potranno cambiarvi qualcosa. Giovedì mattina, 9:30. In un giorno d'estate come oggi ti senti cullata da mille dolci braccia. Diventi pigra e indolente, ma dentro di te c'è un mondo che lievita verso un destino sconosciuto. E volevo ancora dire questo. Quando, tempo fa, lui ha cantato Il Tiglio di Schubert, mi era piaciuto così tanto che gli avevo chiesto di cantare un intero bosco di tigli. Le pieghe e i lineamenti del suo viso sembravano vecchi, vecchissimi sentieri attraverso un paesaggio antico quanto la creazione stessa. Tempo fa, al tavolino d'angolo da Geiger, il viso giovane e fine di Münstenbergen ha fatto capolino tra quello di esse e il mio. D'un tratto mi sono resa conto, quasi con sconcerto, di quanto sia vecchia la sua faccia, proprio come se le siano passate sopra molte vite invece che una sola. Ho avuto un piccolo contraccolpo e, come in una fotografia istantanea, ho sentito che non avrei voluto legare per sempre la mia vita alla sua, che sarebbe stata una cosa impossibile. Ma in fondo era una reazione meschina, basata com'era sull'idea convenzionale del matrimonio. La mia vita è comunque legata alla sua, o piuttosto è collegata alla sua. E non tanto le nostre vite, quanto le nostre anime. Mi rendo conto che questo possa suonare piuttosto enfatico la mattina presto, ma dipende probabilmente dal fatto che non posseggo ancora del tutto la parola anima, che non è ancora di mia competenza. È straordinariamente banale e meschino che nei momenti in cui il suo viso mi piace io desideri sposarlo, mentre quando mi appare così, così vecchio, soprattutto se accanto un viso giovane e fresco, io pensi allora no, meglio di no. Sono criteri e reazioni che dovrei cancellare dalla mia vita, che ostacolano un sentimento d'unione veramente grande, oltre i confini di convenzione e matrimonio, o meglio, dell'idea che ce ne facciamo. Venerdì sera, 7:30. Oggi pomeriggio ho guardato alcune stampe giapponesi con Glasner. Mi sono resa conto che è così che voglio scrivere, con altrettanto spazio intorno a poche parole. Troppe parole mi danno fastidio. Vorrei scrivere parole che siano organicamente inserite in un grande silenzio e non parole che esistono solo per coprirlo e disperderlo. Dovrebbero accentuarlo piuttosto, come in quell'illustrazione, con un ramo fiorito nell'angolo in basso. Poche, tenere pennellate, ma che resa dei minimi dettagli, e il grande spazio tutt'intorno, non un vuoto, ma uno spazio che si potrebbe piuttosto definire ricco d'anima. Io detesto gli accumuli di parole. In fondo ce ne vogliono così poche per dir quelle quattro cose che veramente contano nella vita. Se mai scriverò, e chissà poi che cosa, mi piacerebbe dipingere poche parole su uno sfondo muto. E sarà più difficile rappresentare e dare un'anima a quella quiete e a quel silenzio che trovare le parole stesse. E la cosa più importante sarà stabilire il giusto rapporto tra parole e silenzio. Il silenzio in cui succedono più cose che in tutte le parole affastellate insieme. E in ogni novella o altro che sia, lo sfondo muto dovrà avere un suo colore e un suo contenuto, come capita appunto in quelle stampe giapponesi. Non sarà un silenzio vago e inafferrabile, ma avrà i suoi contorni, i suoi angoli, la sua forma. E dunque le parole dovranno servire soltanto a dare al silenzio la sua forma e i suoi contorni, e ciascuna di loro sarà come una piccola pietra miliare o come un piccolo rilievo lungo strade piane senza fine o ai margini di vaste pianure. È buffo, potrei riempire dei volumi su come vorrei scrivere, ma può darsi benissimo che a parte le ricette io non scriverò mai nulla. Però le stampe giapponesi mi hanno fatto capire a che cosa io aspiri e mi piacerebbe camminare una volta attraverso paesaggi giapponesi per capirlo ancora meglio. Del resto credo che un viaggio in Oriente lo farò in futuro per trovare in quei luoghi, vissute ogni giorno, quelle cose in cui qui ci si sente soli, in dissonanza. Giugno, martedì sera, 10:30. Stamattina alla prima colazione, notizie più o meno circostanziate dal ghetto. 8 persone in una cameretta, con la comodità che si può immaginare. Non si capisce, non si riesce a concepire che tutto questo succeda a poche strade da qui, che possa diventare il tuo proprio destino. Stasera, tornando dall'amico vegetariano svizzero verso casa sua, dove il geranio continua a proliferare, gli ho chiesto d'un tratto: «Dimmi, una buona volta, che debbo fare dei miei sensi di colpa quando vengo a sapere che 8 persone sono costrette a vivere in una cameretta mentre io ho quella grande stanza piena di sole tutta per me?» Lui mi ha guardata di traverso con un'espressione piuttosto diabolica e ha risposto: «O tu lasci quella stanza», e ha fatto una faccia ironico interrogativa come se dicesse «ti ci vedo proprio», «o cerchi di capire cosa c'è dietro quei sensi di colpa. Forse pensi di non lavorare abbastanza?» A quel punto ci ho visto chiaro. «È vero», ho detto. «Il mio lavoro mi permette di rimanere sempre nei mondi elevati dello spirito e quando vengo a sapere di situazioni come questa mi domando inconsciamente, o come ora consciamente, riuscirei a mandare avanti il mio lavoro con la stessa convinzione e dedizione se abitassi insieme con altre 7 persone affamate in una camera sudicia. Per me, questo lavoro spirituale, questa intensa vita interiore, hanno valore soltanto a condizione che possano essere proseguiti in qualsiasi circostanza. E se non è possibile nella pratica, almeno nel pensiero. Altrimenti tutte le cose che faccio ora sono solo belle lettere. Forse quel che mi paralizza un po' è proprio il timore di non poter rimanere me stessa in quelle condizioni. È l'insicurezza di non poter superare quella prova. Una volta sarei potuta restare bloccata per settimane, ma probabilmente non credevo ancora nella necessità del mio lavoro. Dovrò ancora dimostrare la validità di quel modo di essere se continuerò a vivere come faccio ora. Io non so fare l'operaia socialista o la rivoluzionaria politica, questo posso togliermelo dalla testa, anche se i miei sensi di colpa potrebbero ugualmente spingermi in quella direzione. Chiaro che non gli ho detto tutte queste cose durante la nostra breve passeggiata, gli ho detto solo, forse è la mia paura di non superare la prova. E lui, molto serio e calmo insieme, quella prova verrà per tutti noi. Dopodiché ha comprato 5 piccoli boccioli di rosa e me li ha messi in mano dicendo: «Lei non si aspetta mai nulla dal mondo esterno e così finisce sempre per ricevere qualcosa». Mercoledì mattina, 7:30. È così trascinante e ardente il mio agostino a stomaco vuoto. Un raffreddore di testa ora non mi fa più perdere completamente l'equilibrio, però non è un piacere. Buongiorno, scrivania disordinata. Lo straccio da spolverare è buttato con negligenza intorno ai miei 5 giovanissimi boccioli di rosa. E Uber Gotti Rilke è mezzo schiacciato sotto il manuale di russo per commercianti. L'anarchico Kropotkin se ne sta spiegazzato in un angolo, non è più del tutto di casa qui. L'ho tirato giù dallo scaffale polveroso di camera mia. Volevo rileggere la descrizione di come aveva reagito alla cella del carcere in cui doveva trascorrere qualche anno di prigionia. E se si traspone quella descrizione su un piano interiore, la si può usare come immagine di come dobbiamo reagire di fronte alle norme che sempre più restringono lo spazio in cui possiamo muoverci. Si deve valutare subito le possibilità di quello spazio, per angusto che sia, e tradurle in piccole realtà. Mi sono detta, prima di tutto devo badare a rimanere forte, non voglio ammalarmi. Supponiamo che, durante una spedizione al Polo Nord, io sia costretta a trascorrere alcuni anni in quelle regioni. Mi terrò in movimento il più possibile, farò esercizi di ginnastica e non mi lascerò logorare dall'ambiente che mi circonda. 10 passi da un capo all'altro della mia cella sono già qualcosa, moltiplicati per 150 sono una versta. Mi sono proposta di camminare ogni giorno 7 verste, circa 5 miglia, 2 verste al mattino, 2 prima di pranzo, 2 dopo pranzo e 1 prima di andare a dormire. Quest'ora prima della colazione è per me come una piattaforma per salire sulla mia giornata. C'è una gran tranquillità, anche se i vicini hanno la radio accesa, e anche se Ann, seppure pianissimo, sta russando dietro di me. Non c'è proprio nessuna pressione intorno. A volte, quando pedalo per le strade, molto lentamente e tutta assorta in quel che avviene dentro di me, mi sembra di potermi esprimere con tale forza e sicurezza che poi mi stupisco quando ogni frase che scrivo si regge così male e appare così sgraziata. Certe volte parole e frasi corrono dentro di me così sicure e persuasive che dovrebbero uscirmi fuori quasi da sole e proseguire naturalmente il loro corso su un qualsiasi pezzo di carta. Ma non siamo ancora affatto a questo punto. Mi domando solo se non lascio troppo gioco alla mia fantasia, se non le vengo troppo poco incontro dall'esterno, non la sforzo abbastanza ad assumere delle forme. ma non c'è soltanto una fantasia indisciplinata e vagabonda. Ci sono effettivamente delle cose che stanno prendendo una forma sempre più circoscritta, concentrata e tangibile, e tuttavia non c'è ancora nulla di concreto. Com'è possibile? A volte mi sento proprio come una grande officina in cui si lavora duramente, si picchia col martello e sa Dio cosa. E altre volte mi sento come se dentro fossi di granito, un pezzo di roccia battuto senza posa da forti correnti. Una roccia di granito che diventa sempre più scavata e in cui contorni e forme si intagliano col passare del tempo. Forse verrà un giorno in cui quelle forme saranno belle e pronte, ben nette nei loro contorni, e allora mi toccherà semplicemente registrarle così come le ho trovate in me stessa. Sto semplificando troppo? Ho troppa fiducia in un lavoro che in questo momento viene fatto per me? Voglio metterci tutto il mio impegno e la mia attenzione, e questi, a loro volta, assisteranno al lavoro a nome mio. Saranno i miei delegati in quell'officina, ma assisteranno, semplicemente, senza fornire alcun aiuto effettivo. Venerdì. E ora sembra che gli ebrei non potranno più entrare nei negozi di frutta e verdura, che dovranno consegnare le loro biciclette, che non potranno più salire sui tram né uscire di casa dopo le 8 di sera. Se mi sento depressa per queste disposizioni, come stamattina, quando per un momento le ho avvertite come una minaccia plumbea che cercava di soffocarmi. Non è, però, per le disposizioni in sé. Mi sento semplicemente molto triste, e allora questa tristezza cerca conferme. Così, una lezione poco piacevole che devo dare mi ispira altrettanta paura e angoscia che le più pesanti misure adottate dalle forze di occupazione. Non sono mai le circostanze esteriori, è sempre il sentimento interiore, depressione, insicurezza o altro, che dà a queste circostanze un'apparenza triste o minacciosa. Nel mio caso funziona sempre dall'interno verso l'esterno, mai viceversa. Di solito le disposizioni più minacciose, e ce ne sono parecchie attualmente, vanno a schiantarsi contro la mia sicurezza e fiducia interiori. E una volta risolte dentro di me, perdono molto della loro carica paurosa. Bisogna pure che sistemi questo raffreddore, questo malessere. Consumano la mia energia e la mia voglia di lavorare. Devo togliermi questa idea. Che solo perché patisco tanto il freddo e il raffreddore mi sento la testa chiusa, io abbia il diritto di lasciarmi un po' andare, di lavorare meno bene. Dovrebbe quasi essere il contrario, oserei dire, anche se gli atteggiamenti forzati non vanno mai bene, neppure in questo caso. Il continuo aggravarsi della situazione alimentare abbasserà la nostra resistenza al freddo e ai raffreddori, perlomeno così sta già succedendo a me. E l'inverno deve ancora venire. E si deve pur continuare ad andare avanti, a essere produttivi. Devo prepararmi a un futuro in cui gli impedimenti fisici faranno parte della mia vita, se voglio evitare che essi si presentino ogni volta come ostacoli inaspettati e paralizzanti. Devo, per così dire, acclimatarli alla mia condizione quotidiana, a tutta la mia piccola persona. Allora essi non saranno più un elemento frenante che dovrò affrontare ripetutamente con gran dispendio di tempo e energia. Saranno invece un elemento che avrò risolto in me stessa una volta per tutte. Magari mi sono espressa malissimo, ma so perfettamente che cosa voglio dire. Sabato mattina, stanca, scoraggiata e frusta come una zitella. Assonnata come la pioggerella fredda che cade fuori, così senza forze. Ma allora non devi startene a leggere in bagno fino a l'una di notte con gli occhi che ti si chiudono per il sonno. Chiaro che la ragione è un'altra. Una crescente svogliatezza e stanchezza. Forse un fatto puramente fisico, dopo tutto? Tante piccole schegge del proprio io che tagliano la strada a spazi più ampi. Questo io tanto ristretto, coi suoi desideri che cercano solo la loro limitata soddisfazione, va strappato via, va spento. Più mi sento stanca e debole, più mi sconcertano la sua forza e il suo amore, che rimangono sempre a disposizione di tutti. Sono semplicemente sbalordita che gli avanzino tante energie in giorni simili. In ogni momento possiamo essere spediti in una baracca nel Drente, e nei negozi di frutta e verdura sono appesi cartelli che vietano l'ingresso agli ebrei. Una persona normale ne ha abbastanza oggi. Lui invece riceve 6 pazienti e passa ore intense con ciascuno di loro. Li apre e ne tira via il pus, apre le sorgenti in cui Dio si nasconde a molti uomini, continua a lavorare con loro finché le acque scorrono nelle loro anime prosciugate. Le confessioni si ammucchiano sui suoi tavolini, quasi tutte finiscono con «aiutami, ti prego», e lui c'è per ognuno e aiuta. Ieri sera in bagno ho letto di un prete. Era un intermediario tra Dio e gli uomini. Le cose ordinarie non l'avevano potuto toccare e proprio per questo capiva così bene la pena di tutti gli esseri in divenire. Ci sono dei giorni in cui non riesco a tenergli dietro per stanchezza o per altro. Allora vorrei che la sua attenzione e il suo amore fossero soltanto miei. E di me non resta che quell'io limitato e gli spazi cosmici che ho dentro si chiudono. Naturalmente, allora, perdo il contatto con lui. E vorrei che anche lui fosse soltanto un io limitato e tutto per me. Un desiderio femminile molto comprensibile. Ma mi sono già allontanata parecchio da questo mio io e continuerò per questa strada. E i cedimenti fanno parte di questo percorso. In passato mi capitava di scrivere: gli voglio così bene, così infinitamente bene. Ora quel sentimento è scomparso. Forse è per questo che mi sento così oppressa, triste e logora. In questi ultimi giorni non riesco neanche a pregare. Non voglio neppure bene a me stessa. 3 cose che sono probabilmente connesse tra loro. Divento di colpo ombrosa come un mulo che, trovandosi su un sentiero roccioso, non vuole più fare un passo avanti. E quando mi sento spenta nei suoi confronti e non ho più spazio e forza per viverlo interiormente, mi domando di punto in bianco: forse mi ha lasciata un po' andare anche lui? Forse le sue energie sono così consumate dalle tante persone che quotidianamente ne hanno bisogno che per un po' deve prendere le distanze da me? Etti, mi disgusti. Così egocentrica, così meschina. Invece di stargli accanto col tuo amore e con la tua partecipazione, ti domandi come una bambina piagnucolosa se lui ti dedichi, per carità, abbastanza attenzione. Sei la classica donna piccina che pretende tutto l'interessamento, tutto l'amore per sé. Orora, una breve conversazione telefonica con lui, oggettiva e scolorita. Credo che ci sia anche questo, un volermi gonfiare in una specie di sentimento tragico, e non solo un sentirmi sempre triste, ma un volermi sentire sempre più triste, un portare agli estremi le situazioni drammatiche per poi soffrirne di gusto. È un resto del mio masochismo? Serve poco fare dei saggi ragionamenti da adulti nel nostro strato superiore, quando in quello inferiore pullulano piante velenose che devono essere sradicate. Probabilmente lui riderebbe non poco se conoscesse tutte le mie fantasie sui sentimenti morti nei suoi confronti e direbbe con tono molto obiettivo, tranquillizzante e serio: in ogni relazione capitano dei momenti bassi. Bisogna lasciare che passino, poi tutto va a posto di nuovo. Ecco che io assolutizzo un'altra volta questi momenti. È anche così stupido, in tempi che consumano ogni energia, sentirti infelice perché la tensione fra te e un uomo si è allentata un pochino. Tu, che non hai da fare la coda per ore, ogni giorno trovi il cibo in tavola, è Kete ad occuparsene, e la scrivania coi libri ti offre ospitalità ogni mattina. È l'uomo più importante della tua vita, abita a poche strade da qui e non è stato ancora portato via. Dormi invece abbastanza, finalmente, e vergognati ben bene, e veditela con te stessa. Non trattare un altro mettendo tutto sul piano della suscettibilità. Non farti prendere da un'atmosfera, da un momento, per di più d'indolenza, ma tieni presente le grandi linee e le grandi direzioni. E sii pure triste, semplicemente e sinceramente triste, ma non costruirci sopra dei drammi. Una persona deve essere semplice anche nella sua tristezza, altrimenti la sua è soltanto isteria. Dovresti rinchiuderti in una cella spoglia e startene sola con te stessa finché tu non sia nuovamente in chiaro e tutte le isterie non ti siano passate.